Sveglia e caffè, barba e bidet, presto che perdo. Il cellulare squilla. Ok, guarda, depressione galoppante, la finisco. Spara. Jason, la questione è seria. Dimmi, Rob, sono tutte orecchie. Ma secondo te, cos'è l'amore? Pronto? Ma che stronzo, mi ha attaccato. Corri, Jason. Prepara le valigie. Hai poco tempo. Autostop. Primo passaggio e via verso il sud. Scappa, Jason, scappa. L'amore potrebbe suonare anche al tuo campanello. C'è qualcuno in casa? Sono l'amore. Fottiti, stronzo, non mi avrai mai. La prossima volta che ti fai vedere, miro più in alto. Hai capito? Allora, vediamo un po'. Titolo. Che cos'è l'amore? Introduzione. L'amore assomiglia a un cuore. Svolgimento. Alcune volte l'amore fa ridere. Ma cosa ne so cos'è l'amore? Mi stavo facendo la mia solita sega prima di uscire, ma le seghe non c'entrano niente con l'amore. O forse sì. Salve. Ciao Jason, com'è da queste parti? No, volevo solo dirti che ho deciso di innamorarmi di te. Ma no, non serve dire niente. Questi sono i fiori. Jason, ma grazie. E questa è una poesia che ho scritto per te. Ma ed io che pensavo che fossi una persona. Senti, ma domani sera che fai di bello? Un cinema, cenetta a lume di candela, poi magari si va a vedere l'alba insieme. Jason, mi stai facendo arrossire. Non ci posso credere. È un sì o no? Ma certo, è un sì. Pensavo che fosse più difficile. Stavolta, Rob, lo frego proprio. Senti, ti volevo fare anche un'altra domanda. Dimmi, ma quando scopiamo? Ciao Jason, ma perché prima mi hai attaccato il telefono in faccia? Senti Rob, non rompere le palle. Sono stato appena aggredito da una pazza sul passetto di casa mia. Ma stai scherzando? Ma una pazza totalmente fuori di sé. Senti, per quella domanda che mi hai fatto prima, la risposta è...